Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 9 febbraio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutti gli nostri ascoltatori e ascoltatrici tra la città e il carcere. Io sono sempre Caterina Bombarda, siete su Liberi Dentro e Duradio e qui con me c'è Ignazio De Francesco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Caterina, buongiorno a tutti, buongiorno, vorrei dire un buongiorno particolare a quelle persone detenute, donne, che hanno la preoccupazione dei loro figli e anche a qualcuna accade che ha i figli molto piccoli con sé in carcere per un motivo preciso, ce lo dici tu Caterina. Sì. E infatti mi dai l'attacco per questa notizia che leggo dalla Repubblica, a titolo Bambini dietro le sbarre, le case famiglia che ci sono e che non ci sono, e perché questa la giornalista Flavia Carlo Recchio fa una disamina di quelle che sono le strutture in Italia per legge, previste per legge, la legge 62 del 2011, che affronta la questione delle madri con i figli piccoli in carcere. Purtroppo le misure alternative rappresentate dagli istituti di custodia attenuata per le madri, i cosiddetti ICAM, e le case famiglia protette, ci sono e non ci sono, nel senso che ci sono, ma sono esigue. Pensate che le misure alternative, cioè gli ICAM, sono soltanto 5 in Italia, mentre le case famiglia protette sono soltanto 2 e forse, come vi avevo raccontato la scorsa settimana, ne nascerà un'altra, ma non è detto, forse nascerà con la legge di bilancio. E quindi lo scopo della legge, se era quello appunto di favorire gli arresti domiciliari e la creazione di case famiglia, non è stato possibile in realtà, perché la soluzione più utilizzata è quella di utilizzare gli ICAM come delle istituzioni carcerarie a tutti gli effetti. E quindi diciamo che è un articolo un po' critico che sottolinea il fatto che bisogna trovare una soluzione diversa. E questo la cosa, il grande problema appunto delle mamme che devono subire la detenzione. Quindi un problema grosso che seguiremo con attenzione anche in futuro. E il problema della famiglia poi, della famiglia e della sua vita, della sua costituzione. E a questo proposito, se mi consenti di agganciarmi, vorrei dire qualcosa. Ma felice, però sono delle cose un po' sì, con i due lati, bianco e nero, perché è una notizia che viene dalla Giordania. Noi siamo abituati a dire che la natalità, l'età del matrimonio si alza in Italia, i ragazzi non si vogliono più sposare, fanno meno figli, però troviamo per esempio questa indagine che è stata fatta da un centro di solidarietà, si chiama il SIGI in Giordania, dal quale risulta che ci sono in Giordania, che è un paese piccolo, 10 milioni di abitanti, 197 mila giordani che sono sopra i 35 anni e non si sono mai ancora sposate. E quindi è una cosa che fa pensare questo, l'innalzamento dell'età del matrimonio in Giordania e in generale nei paesi appunto dell'area del Mediterraneo, mentre noi saremmo pensati a portare che ci si sposa presto, le ragazze 16 anni, ci sono vari fattori. Esatto, volevo chiederti perché non ci si sposa? Dunque, da una parte ci sono sicuramente i problemi economici. In Giordania in particolare è caro sposarsi, a parte la crisi del Covid, però ci vogliono soldi, non è facile ad Amman, cos'è il lavoro. Però c'è un altro aspetto, è che c'è anche per la popolazione, i giovani giordani, aumenta il desiderio per esempio di istruzione. Le ragazze vogliono laurearsi, le famiglie vogliono che le ragazze abbiano una posizione, si raggiungano. Quindi non è che a 16 anni troviamo il fidanzato, a 18 ti sposi, si aspetta. E questo vale anche per i ragazzi. Anche i ragazzi tendono ad attendere di più. Tutto questo poi riguarda, magari ne parleremo, ci scriverete anche voi, tutto il lato dell'affettività. Come posso vivere fino a 35 anni, ecco, senza un'esperienza affettiva, in un mondo in cui per avere rapporti sessuali, per esempio, bisogna essere sposati? Quindi questo è un grosso problema, ma ci torneremo. Ci torneremo e magari ci scriveranno anche i nostri ascoltatori, sempre tra la città e il carcere, perché non dimentichiamo che siamo dentro una città e in una regione che ci sta ascoltando. Ma adesso è il momento di lanciare la musica. Ignazio, continuiamo il nostro percorso con questo cantautore. Farida Latrash, Farida Latrash è del 1910, che nasce in Siria, la sua famiglia è una famiglia famosa che combatte contro i coloni, quelli unionisti francesi, fuggono in Egitto, e in Egitto la mamma era già una cantante, una suonatrice di oud, il bellissimo strumento arabo, e questo ragazzo precocemente diventa un grande cantante. E tra l'altro diciamo questo, aggiungiamo, se posso, che la sua storia inizia in radio. Cantava sulle radio, per le radio, e quindi credo che lui ormai è morto, non c'è più, ma sarebbe molto contento di sapere che va su Eduradio attraverso Fujiko e Teletricolore con questo brano bellissimo, L'Al-Kutub Awarak Shajar, una lettera d'amore scritta su una foglia di albero. Quindi Farideh el-Atrash. rimaniamo in tema amore, quindi. Sì. Bene, musica. اكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر لاكتب اوراق الشجر سافر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر يا حبيبي دخلك عود بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر اكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق لا اكتب على المفارق الله يعين اللي مفارق ويا مرسال اللي مارق ودي لي حبيبي E rieccoci sulle note di Farid Atrash. Adesso vi racconto una bellissima notizia che è stata pubblicata su Repubblica e si intitola così, senti, Storie di prigionia, un albo a fumetti da Poggio Reale di Alessandro Nocera su Repubblica. E Alessandro di Nocera racconta di questo laboratorio partito nel 2019, durato un anno, dove quattro autori, proprio scrittori anche, hanno avviato un laboratorio chiamato La Voce degli Invisibili, che poi è divenuta una vera e propria pubblicazione, un po' come il nostro ponte di storie, quello di cui vi ho parlato ieri, ma con una particolarità. Innanzitutto è stato avviato non a Bologna, ma nel padiglione di Genova di Poggio Reale per parlare con i carcerati, intervistandoli, quindi non era un laboratorio di scrittura creativa, ma delle interviste sulle loro condizioni e sul senso della detenzione vissuto da loro. E poi è divenuto una vera e propria pubblicazione, proprio La Voce degli Invisibili, con 54 pagine a colori, quindi un fumetto, in vendita a 5 euro, quindi un prezzo accessibile, sul sito lavocedegliinvisibili.bigcartel.com, e cui il ricavato sarà destinato per finanziare le iniziative sociali in questo ex OPG. Ma adesso do la parola a te. Ottimo, continuiamo allora con il nostro Galateo arabo, molto particolare, abbiamo fatto nelle settimane scorse, abbiamo visto cose come si vince l'ira, come si ha la pazienza, queste cose classiche, ma c'è un Galateo che passa attraverso le costituzioni, e in particolare le costituzioni della primavera araba. È anche un modo, lo vogliamo dire qui a chi ci ascolta, che sono ragazzi del Nord Africa, ma tutti quanti, che la primavera araba non è stata fasulla. Io l'ho vissuta, perché ero nel 2011, ero in Siria, poi nel 2013 sono andato in Egitto, le cose le ho viste in piazza. I ragazzi volevano le libertà che sono contenute nella nostra Costituzione italiana, cose sacrosante. Tra queste c'è la libertà di espressione e di informazione. Sentite che bello l'articolo 31 della Costituzione della Tunisia. Hurriyatul ra'i wal fikr wa ta'bir wa l'i'lam wa nashr madmuna. La yajuzu mumarasata raqaba musbaqa al hadi al hurriyat. Allora, la libertà di opinione, di pensiero, di espressione e di informazione e di pubblicazione è assicurata e non è possibile esercitare una censura preventiva su queste libertà. Allora, voi tenete presente qual era la situazione? Qual è la situazione di una dittatura? La dittatura funziona così. Io lo so perché sono stato in paesi dove si esercitava la dittatura e la si esercita ancora. C'è un ufficio dove tutto quello che si pubblica va sul tavolo di un censore. Se non c'è quel timbro, non si pubblica. Allora, queste sono libertà e noi la troviamo nella nostra Costituzione stupenda, all'articolo 21, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ecco, ovviamente sono delle cose meravigliose, però anche questo non devono essere abusate. Uno deve avere la responsabilità di quello che diffonde. Diffondere per edificare e non diffondere per distruggere. Certo, perché questo richiama anche agli articoli fondamentali, anche della, non solo della nostra Costituzione, ma anche della Carta dei diritti umani, dove la nostra libertà è valida fino al punto in cui non va a ledere la libertà altrui. Questo dobbiamo sempre ricordarcelo come limite anche e carezza verso l'altro, perché è veramente importante vivere con questo senso di giustizia. Ed è giustissimo quello che dici, e anche questa cosa che c'è un dialogo tra le costituzioni. Questi articoli che leggiamo sono stati scritti da musulmani nel Nord Africa e noi troviamo delle espressioni che risuonano nella Costituzione italiana. Quindi è veramente un ponte, noi che facciamo ponte tra città e carcere lo facciamo attraverso le costituzioni. E proprio perché abbiamo parlato di questi articoli sulla libertà di pensiero e di parola, adesso è ora di lanciare un brano di un nostro cantautore italiano. Lui è Giorgio Gaber e il brano si intitola La libertà. Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Adesso siamo con un nuovo ospite. È proprio nuovo, nuovo perché non l'ho mai intervistato fino ad ora, ma spero ci faccia compagnia. Lui è Raffaello Longo ed è monaco tibetano di tradizione buddista. E perché lo intervistiamo? Intanto, buongiorno Raffaello e benvenuto a Liberi Dentro. ciao carissimo. Allora, stavo dicendo ai nostri ascoltatori che ti stiamo intervistando perché il 12 di febbraio è Capodanno buddista, Losar viene chiamato, ed è una delle feste, tra le feste più importanti della tradizione buddista, quindi volevo approfondire un po' con te il significato di questa festa, ma a partire da un dato biografico, perché io so che tu sei stato volontario in carcere, quindi se unisci queste due cose che ti sto chiedendo, ci fai proprio un grande piacere per chi ci ascolta tra la città e il carcere. Ok, allora partiamo subito dal Losar, che è appunto il capodanno tibetano, e che sarà il 12 febbraio, praticamente con l'inizio della nuova luna, perché è un calendario lunare, e sarà per i tibetani sarà l'anno 2148, perché parte la loro datazione da quando c'è stato un'ascesa al trono di un re nel 127 avanti Cristo e sono partiti da lì. E viene chiamato l'anno del bue di ferro, perché in pratica diciamo che l'astrologia sia cinese che tibetana tiene in considerazione 12 animali, tra cui anche il bue, e ognuno di questi viene associato di volta in volta a uno dei quattro elementi, per cui 12, alla fine sono 60 cicli, cioè lo stesso anno, questo anno del bue di ferro, sarà tra 60 corre, anni. Esatto. Quindi corre in questo modo qua. E appunto inizia quest'anno il 12 di febbraio, e la prima settimana viene dedicata alla Mongolia, perché è partita dalla Mongolia per il riconoscimento, in questo modo viene dedicato ai mongoli. Poi dopo ci sono tutte le altre cose. E nel frattempo ci sono delle, diciamo che ogni giorno viene festeggiato un miracolo che il Buddha ha fatto a suo tempo, per cui è un periodo ovviamente che inizia con delle feste e poi anche delle vere e proprie feste, nel senso che poi tutti stanno, non lavorano più come prima. Ecco. Perché la durata di questa festa è 15 giorni, mi pare. Bella, esatto, è bella lunga. Da noi qua in Italia facciamo solo un paio di giorni, per cui il primo giorno ci sarà una cerimonia al mattino presto, si mangiano delle cose come se fosse a Natale, quindi delle cose buone, insomma. E il secondo giorno si fa una cerimonia che si chiama la cerimonia delle bandiere, che viene sottolineata con un lancio della farina. Praticamente tutti assieme in cerchio nel cortile si ha come una manciata di farina bianca. E praticamente dopo diciamo così, un'incitazione che viene fatta in un certo modo, viene lanciata questa farina verso l'alto come indicare offriamo a tutte le divinità, no? questa farina che rappresenta qualcosa di positivo, sperando che l'anno vada bene. E poi dopo ovviamente segue una battaglia con lancio di farina, come se fosse coriandoli, e quindi è una cosa abbastanza... Si conclude, no? In modo divertente. Abbastanza divertente, sì. Infatti molti vengono a vedere il secondo giorno, perché il primo giorno è un po' barboso, no? Il primo giorno è di auspicio, il secondo... Esatto, il secondo è molto più divertente, e viene chiamato il giorno delle bandiere perché vengono benedette le bandiere tibetane, che non so se avete presente come sono fatte. Sono delle bandiere che vengono appese tra un angolo e l'altro all'esterno delle case. Attenzione che il vento, attraversando queste bandiere che sono di auspicio, portino il loro auspicio a tutti, no? Proprio con il vento. Quindi sono interessanti, hanno 5 colori ed è una cosa bella da vedere. Ecco. Quindi c'è anche questa cerimonia prima del lancio della farina. Questo è quanto succede, quanto noi facciamo succedere qua. Nei monasteri tibetani invece dopo questi 2 giorni proprio vanno in vacanza, per cui molto spesso i monaci tornano alle famiglie e rimangono poche persone nei monasteri, se non quelle che officiano varie cerimonie e anche feste. E tu in particolare sei connesso dal monastero di... In questo momento. Io sono qua a Pomaia, che è in provincia di Pisa. Uh-huh. Siamo una decina di chilometri dal mare, davanti a noi vediamo la Capraia, uh-huh, e anche la Gorgona, che appunto è stato un posto dove io per 3 anni ho fatto il volontario, che è una delle carceri che immagino, sì, coloro che ci stanno ascoltando la conoscono, molto bella, però appunto isolata, è 1 chilometro quadrato in mezzo al mare. Uh-huh. Quindi questa è la nostra vista che abbiamo davanti. Ritorniamo su questo dopo la musica. E cosa lanciamo? Pensavo di suggerire questo pezzo musicale, essendo io, diciamo, amante degli anni 70, quindi potremmo fare Stairway to Heaven delle Zeppelin. Musica! There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes. E rieccoci, bentornati. Siamo sempre con il nostro ospite Raffaello. E stiamo parlando del capodanno buddista. Il 12 di febbraio sarà festeggiato in base al calendario lunare. E ci siamo lasciati con una pillola biografica. Ci stavi raccontando della tua esperienza di volontariato al carcere della Gorgona. Sì, sì, certo. È un programma che è legato alla nostra organizzazione, che si chiama Liberation Project, praticamente di cercare la libertà all'interno delle carceri. E la libertà come? Non fuori, perché altrimenti sarebbe un'evasione, no? Anche se è un diritto, no? ma una liberazione all'interno. E quindi interveniamo nelle carceri in tutto il mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono state persone che hanno potuto seguire programmi di studio che noi facciamo anche nel braccio della morte. E quindi hanno trovato, come dire, una liberazione al proprio interno. Il mio compito era quello di, sì, una volta alla settimana andavo in carcere e stavo con i detenuti che volevano stare con me, e parlavamo di spiritualità, di meditazione e anche di problemi che ognuno in qualche modo viveva. Quindi ho fatto 3 anni lì. Ecco, appunto, è molto giusta questa cosa che dici sulla spiritualità, perché, come sappiamo, il principio della libertà religiosa è sancito all'articolo 19 della nostra Costituzione e trova un riflesso nell'articolo 26 dell'ordinamento penitenziario. Tant'è vero che la religione è considerata uno degli elementi per il trattamento dei detenuti. Certo. Quindi volevo chiederti di chiudere con noi ricordandoci qual è il valore della spiritualità in carcere, di qualsiasi spiritualità, anche di un ateo, per dire, perché tutti ce l'abbiamo. Sì. Assolutamente sì, la libertà religiosa vuol dire libero di professare un credo o anche un non credo, per cui in genere gli atei li chiamo diversamente credenti, e quindi c'è la possibilità. Ma dobbiamo tenere presente che la spiritualità è un qualcosa che è nell'essere umano, non è una proprietà delle religioni. Le religioni sono solo dei metodi che possono essere applicati a seconda della propria predisposizione per poter far emergere quelle che sono le nostre qualità interiori, che sono quelle che poi ti danno la libertà. Quindi è un diritto di ognuno di noi, anzi è un dovere, perché nel momento in cui siamo a questo mondo, che ci siamo venuti a fare? Siamo venuti per riconoscere, conoscere e entrare in simpatia col grande sconosciuto, che siamo noi stessi. Quindi è un processo conoscitivo, non solo delle domande che ci accompagnano fin dall'esistenza, ma anche conoscitivo, cioè un gnosis auton, come si diceva in greco, no? Cioè una conoscenza profonda di se stessi. Assolutamente sì, perché la paura nasce dal non conoscere. Quindi tutte le nostre paure derivano dal non conoscere noi stessi. Cerchiamo sempre qualcosa fuori che ci dia sollievo, ma la risposta è più dentro che fuori. Ovviamente bisogna avere un metodo per entrare, non è che si possa entrare così, perché come l'universo è infinito fuori, anche dentro è infinito, quindi bisogna avere, come dire, dei bei corribani, altrimenti è facile andare a cadere in buchi dove non si vorrebbe cadere. Quindi, Raffaello, grazie. Io torneremo con te, e perché spero che tu sia ospite ancora a Liberi Dentro, perché hai parlato di libertà interiore, di ricerca della libertà, e la nostra trasmissione si chiama proprio così, in nome di questa stessa cosa che hai detto. E adesso lanciamo un brano finale, e lancerei Zucchero, Ho un diavolo in me. Bellissimo, grazie. Bentornati, ci salutiamo anche questa volta dopo aver ascoltato Raffaello della comunità buddista tibetana in vista del Capodanno il 12 di febbraio cinese e tibetano per l'appunto buddista. Vi ricordo i laboratori anche oggi pomeriggio con altro diritto, con diritti dentro e fuori, istruzioni per l'uso alle 17 al canale 636 di Teletricolore e vi ricordo anche che questi laboratori sono ascoltabili alla mattina al canale 103.1 di Radio Città Fujiko. E noi ci rivediamo domani. Ciao!